2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 31 dicembre 2011. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. C'è solo una notizia che vorrei ricordarvi questa settimana per poi dare spazio ai nostri approfondimenti. Oggi, a proposito di spazio, parleremo proprio di tecnologie spaziali. La notizia di cui vorrei parlarvi all'inizio riguarda la Apple, che dovrà pagare una multa di 900.000 euro per pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. Riguarda la divisione italiana, la filiale italiana della Apple. Ricorderete che da parecchio tempo clienti, associazioni di consumatori e anche alcuni giornalisti, anche a 2024, abbiamo criticato il comportamento di Apple Italia in tema di garanzia. Le segnalazioni avevano fatto scattare in maggio un istruttore dell'antitrust italiano che questa settimana ha chiuso l'indagine staccando una bella multa. La Apple è stata giudicata colpevole di non aver informato in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennali previsti dal codice del consumo. Ricordiamo che la garanzia di legge dura 2 anni e deve essere riconosciuta dal rivenditore, e la Apple, quando vende sul proprio sito internet, è appunto un rivenditore, ma finora la Apple riconosceva solo 1 anno di garanzia, quindi non conforme alla legge. Adesso l'azienda avrà 3 mesi per adeguarsi, 90 giorni. Va fatta solo una precisazione, visto che alcuni l'hanno definita una maxi multa. Beh, se mettete in rapporto questi 900.000 euro con un colosso che nel mondo ricava, questi sono gli utili dell'azienda, 19 miliardi di euro all'anno, gli ultimi dati disponibili pubblicamente, beh, è come se ad un dipendente che porta a casa 20.000 euro all'anno avessero dato una multa da 1 euro. E quindi ha ragione il presidente dell'antitrust a dire che la normativa dovrebbe essere adeguata per poter dare multe più severe a queste aziende. E poi bisogna vedere quanto di questa multa viene poi effettivamente pagato, perché a volte ci si accorda su cifre che non corrispondono poi alle multe annunciate. Saluto Massimo Morandi, il nostro esperto di telefonia mobile. Bentornato a 2024. Ciao Enrico, un saluto a tutti. Luca Figini, che lavora con te nella redazione, realizza un po' di cose sia su internet che su carta, in edicola, portatili e tablet. Figini è specializzato sia in smartphone che in tablet. Bentornato, ciao. Ciao Enrico, buongiorno a tutti, buon fine dell'anno. Massimo, nel corso del 2011, proprio per titoli, sono accadute alcune cose, devo dire, anche sorprendenti, se noi andiamo a rileggere le notizie del corso dell'anno. Partiamo da quasi un anno fa: il nome più noto della telefonia mobile aveva qualche problema che nel corso di quest'anno, diciamo, ha cercato di risolvere. Che cosa succedeva alla Nokia? Proprio un anno fa circa veniva annunciato l'accordo tra Nokia e Microsoft per la produzione dei nuovi smartphone, quindi l'annuncio ufficiale che Nokia avrebbe comunque lasciato la produzione autonoma degli smartphone Symbian e avrebbe iniziato questa partnership con il più grande produttore di software del mondo, ereditando da Microsoft il suo sistema operativo Windows Phone. Naturalmente un annuncio che oggi è stato sicuramente digerito, masticato e digerito. È stata una cosa sorprendente. Allora è stata una cosa sorprendente, perché comunque Nokia, non dimentichiamo, col suo Symbian ha avuto fino al 70% del mercato dei sistemi operativi per smartphone. Ricordiamo, Nokia non ha partecipato al Mobile World Congress dell'anno scorso, quindi è stato un anno un po' difficile. Un anno difficile, tantissimi lavori in corso. Il frutto di questa partnership si sta vedendo proprio ora, perché a fine di novembre è uscito il primo smartphone, che è Lumia 800, frutto di questa partnership. Poi c'è stata un'altra, potremmo dire, sorpresa, perché un altro nome importante, direi forse l'altro grande nome della telefonia mobile storico, Motorola, è passata di mano. Anche Motorola ha avuto un po' di difficoltà. Sì, tra l'altro un annuncio fatto a Ferragosto, quindi questo ha naturalmente... Io ero qua a lavorare. Vedi, quindi... Vi l'ho data subito la notizia. L'accordo tra Google e Motorola, o meglio, Google acquista la divisione Mobility di Motorola. con tutto quello che questo comporta, ha comportato e comporterà, cioè naturalmente Google, che ha come sistema operativo Android, acquista un produttore di hardware che naturalmente sta producendo telefonini, smartphone con Android. Smartphone, però rimangono Android. Un sacco di punti interrogativi che forse nel prossimo anno vedremo se sì. Guarda, rimangono tanti punti interrogativi e poi soprattutto tutto questo ha fatto un po' tremare il mondo della telefonia mobile, proprio perché il sistema operativo Android aperto, indipendente, fino a quella data naturalmente, adesso si sono aperti un po' di dubbi, qualche produttore ha dubitato che comunque in qualche modo Google volesse chiudere Android e magari concentrarsi con i propri fondi solo su Motorola. Cioè, questo vedremo, c'è da dire, non è accaduto vedremo. Fino ad oggi. Dunque, altre due cose che tu mi segnali, che cito, una è la morte di Steve Jobs, che diciamo c'entra poco col mondo della tecnologia, però di fatto lui è stato uno di quelli che ha dato una sterzata al mondo della telefonia mobile, quindi va citata. Sì, va citata anche perché da questo punto, secondo me, cambia il futuro di Apple. Sarà molto interessante capire come questa azienda farà meno del suo mentore, del suo fondatore. Molti hanno parlato che Jobs avrebbe lasciato 4 o 5 anni di progetti. Io su questo io a questo credo poco. Penso che in questo mondo, poi nessuno lo sa, insomma, in questo mondo i tech sia veramente difficile progettare 5 anni. C'è un'altra cosa interessante, e la citiamo, che non è una notizia, ma una serie di notizie nel corso dell'anno, una serie, potremmo dire quasi infinita, di cause e controcause tra soprattutto Apple e Samsung. Però direi che al di là di questo, c'è se uno va a vedere i grandi quotidiani anglosassoni, hanno fatto delle mappe molto belle, molto chiare, che fanno vedere che c'è stata una esplosione di cause e controcause per quanto riguarda i brevetti negli smartphone, cosa che non si era mai vista e forse che si è vista in altri pochi mercati. Sostanzialmente, detto in un minuto, a cosa stiamo assistendo? Detto in un minuto, stiamo assistendo ad una guerra di poteri, naturalmente. Questo ci fa capire quanto il mercato degli smartphone sia importante a livello economico, quanto a valore questo mercato abbia guadagnato rispetto a tutto il resto del mercato della telefonia. Poi in realtà mi sembra anche che tutte queste cause abbiano piuttosto infastidito i consumatori e che alla fine, difficile naturalmente parlare oggi di quello che saranno poi le sentenze definitive, ma sembra difficile pronosticare che uno dei due colossi possa comunque avere la meglio totalmente. Anche perché poi sono partner in molti campi. Ti faccio solo l'esempio di quello che è successo in Germania con il tablet 10.1 di Samsung, che dopo che Apple ne ha ottenuto il blocco delle vendite, Samsung ha fatto con una piccola modifica, ha continuato poi a vendere lo stesso tablet sostanzialmente. Esatto, guarda, questo fenomeno delle cause contro cause è secondo me molto interessante, però non sono molto d'accordo che i consumatori siano infastiditi. Secondo me i consumatori non gliene frega proprio niente, però parere personale. Io penso che invece in qualche modo io ho notato che c'è stata molta presa di posizione da parte dei consumatori. Poi insomma sono in ballo due brand molto forti. C'è un'altra cosa interessante, il simbolo dell'email in mobilità, quindi il BlackBerry, ma soprattutto l'azienda, la RIM, che produce questo sistema, ha avuto qualche problema. Sì, ricordiamo pochi mesi fa il grande blackout del servizio delle email sui BlackBerry, che ha lasciato, ha fatto cadere nello sconforto migliaia, se non milioni di manager in tutto il mondo. Un'interruzione del servizio lunga, particolarmente lunga, di circa 3 giorni, che non si era mai verificata e che soprattutto ha stupito proprio perché BlackBerry aveva sempre parlato dell'inattaccabilità del suo sistema, della sicurezza e della quasi della impossibilità di farlo cadere. Esatto. In realtà il sistema è caduto. Quello che è curioso è anche che non si è ancora capito fino in fondo perché sia caduto, e sia caduto non lo sapremo in questo mai. Mail, forse non lo sapremo mai, esatto. Sia caduto soprattutto a livello praticamente mondiale, e naturalmente questo è stato un brutto colpo su un servizio che appunto si pensava incrollabile. Sì, tra l'altro questa notizia è anche una notizia che ha anche delle derive su altri temi tecnologici, perché ad esempio c'è chi ha subito detto tutto il grande mondo del cloud computing può essere messo in discussione, perché appunto se crolla un sistema centralizzato come è accaduto per la RIM e BlackBerry, poi ha una ricaduta negativa su tutti quelli che utilizzano questo servizio. Un'ultima notizia che vogliamo ricordare, potremmo farci, diciamo, 15 trasmissioni sulle notizie di quest'anno, ma così le accenniamo molto brevemente, molto velocemente. Sony ed Ericsson, cosa è successo tra questi due brand che si erano messi assieme? Adesso però è successo qualche cosa. Beh, è successo che Sony ha acquisito le quote detenute da Ericsson nella joint venture Sony Ericsson. Quindi questo cosa succede? Cosa significa? Significa che molto presto, sicuramente nel 2012, vedremo i nuovi smartphone marchiati solo Sony e non più solo Sony Ericsson. Ne avevamo già avuto un'anticipazione sui tablet, sì, i primi due tablet usciti semplicemente a marchio Sony. Cosa questo significa? Beh, significa che Sony vuole entrare prepotentemente, vuole tornare, diciamo, perché già c'era molti anni fa nel mondo del mobile. Vedremo con che fortune, perché Sony Ericsson comunque si era riuscita a ritagliare un posto con, tra l'altro, smartphone Android molto molto buoni, di grande qualità, un posto naturalmente con quote di mercato minori, ma comunque seguite. Per Sony è tutto un lavoro da capo, perché tu sai bene che è comunque un marchio che in questi anni ha fatto altre cose e che dovrà comunque farsi nuovamente strada e riconquistarsi, esatto, un credito nell'ambito della telefonia. Allora, in questo modo abbiamo messo un piede nel 2012. Allora, tu hai affidato a Luca Figini l'analisi del prossimo anno, così la responsabilità è sua se dice delle cose che non verranno verificate. In realtà nella sfera di cristallo abbiamo guardato per tutto ieri pomeriggio insieme, poi oggi vediamo gli esiti di questa. Esatto. Senti Luca, a tuo giudizio, a tuo parere, che cosa potremmo vedere nei prossimi mesi almeno di questo 2012 a proposito di telefonia mobile? Beh, intanto le notizie che abbiamo ricordato del 2011 di fatto gettano un ponte sul 2012, in particolare a partire da quella di BlackBerry, che con i blackout, insomma, ha fatto aumentare il numero di ipotesi che vedono RIM, Research in Motion, cioè l'azienda che produce poi BlackBerry, acquisita da qualche altra entità esterna. Si parla di Microsoft, si parla di Amazon, si parla addirittura di Google. Per adesso tutte smentite, però... Sono tutte le smentite sono delle conferme. Sono tutte smentite, ma sono tre aziende che potrebbero ricavare molto dall'acquisto di BlackBerry. Ricordo che Research in Motion, RIM, ha un valore azionario che è paragonabile a solo quello dell'Apple Store, quello dell'App Store di Apple. Quindi non ha un tutto sommato è quasi un affare per una di queste tre aziende, perché si porterebbero in casa una dote di brevetti, di tecnologie, di know-how incredibile da spendere in ambito aziendale. E sempre parlando di acquisizioni, un'altra notizia che fa eco dal 2011 e si riverbera sul 2012 è il ventilato acquisto di Microsoft nei confronti di Nokia. Addirittura. E insomma, la partnership fra Microsoft e Nokia è particolare, nel senso che ci sono in ballo tanti milioni di dollari, ci sono in ballo interessi molto particolari all'interno di una sfera di mercato che è in forte crescita. In questo momento... Forse quello che non le fa trovare d'accordo come unica azienda è che entrambi hanno delle criticità che andrebbero a sommarsi e non a equilibrarsi nell'acquisto l'una con l'altra. La scommessa che le due fanno è molto alta, e quindi a un certo punto, se non dovesse andare a buon fine, quello che Microsoft potrebbe chiedere a Nokia è una parte delle azioni o tutte le azioni per poter rientrare dei soldi che ha speso. Google cosa potrebbe fare nel corso Google potrebbe fare tante cose nel prossimo anno. Intanto potrebbe buttarsi in maniera più prepotente sul fronte tablet, e quindi come ha fatto con gli smartphone, con una serie Nexus, ipotizziamo, dei tablet che faccia un po' dalla linea guida, perché ha notato che per esempio l'Amazon Fire, che è l'ebook reader tablet basato su Android, vende abbastanza bene, e quindi si può fare meglio rispetto a quello che è stato fatto finora sul fronte tablet Android. Ma Google potrebbe anche spingere su una serie di altri fronti con Android, per esempio sul fatto del dual SIM. E quindi, siccome Android è un sistema operativo aperto, una piattaforma aperta, aprirsi anche a un mercato... Dunque, Luca, ci fermiamo per un minuto. Questo è 2024, lo riprendiamo tra poco. 2024. Parlavamo poco fa di Dual SIM e dei progetti che ruotano attorno al mondo Android. Visto che c'è molto interesse su questo tema, dedicheremo presto una parte della puntata di 2024 ai Dual SIM. Massimo, mi confermi che c'è effettivamente parecchio interesse attorno a questo tema? Sì, c'è tantissimo interesse, sono dei prodotti che stanno vendendo molto bene, su un 20-21 milioni di unità, che poi è il valore del mercato italiano. Si parla che il 2011 potrebbe chiudere con 1.000.000-1.200.000 pezzi, che è molto, che è molto. E c'è molta richiesta. Il nostro è un paese strano, anche in questo è strano. Ti faccio un esempio: in altre parti del mondo i dual SIM sono molto ricercati. Perché? Un esempio, l'India. Perché l'India non ha roaming interno, quindi ogni zona del paese è governata da un operatore. Quando passi da una regione all'altra non parli più se non cambi la SIM. Quindi qui c'è un senso nell'avere il dual SIM, certo. Un trisim o un quadrisim, sì. Perché se viaggi tanto non parli più a un certo punto. Invece col dual SIM non devi continuamente aprire il telefono e cambiare la SIM. Chiarissimo. Qui invece non c'è questo problema, perché il roaming interno l'abbiamo ormai da tantissimi anni. Poi c'è addirittura internazionale il roaming. C'è il roaming internazionale, c'è il roaming nazionale. Non è un problema il roaming. Non è un problema. Il problema qual è? Il problema è avere su uno stesso telefono più numeri che possono servire o durante il lavoro, la giornata e magari la sera per la parte personale, oppure addirittura avere un numero tra virgolette segreto, perché tanti produttori di dual SIM hanno anche a livello di pubblicità fatto molta pressione su questo. Quindi avere un numero nascosto, avere una relazione nascosta, avere una parte di vita che viene gestita solo in alcune ore della giornata. Per l'amante. Per l'amante, naturalmente. No, per questo ho detto l'Italia è un paese strano, perché nessun altro paese c'è questo, soprattutto dove il sistema dei telefonini è così forte, concreto, c'è stato un'ascesa dei dual SIM come in Italia, e questo ci deve far pensare. Sì, e faremo appunto una puntata anche con gli ascoltatori. Luca, ci sarà l'iPhone 5, l'iPad 3, Apple che cosa farà nel prossimo anno? L'iPhone 5 quasi sicuramente, se non prima inizio dell'anno, quantomeno la seconda metà dell'anno, come ci ha abituato Apple al suo ciclo di rinnovamento dei prodotti. L'iPad 3 è un'eventualità, probabilmente non tanto a livello hardware di processore, potrebbe portare novità a livello di display più ampio, di risoluzione maggiore. Sicuramente c'è una certezza per il 2012, che è Windows 8. E quindi Windows 8, che sarà un sistema operativo sia per computer portatili, per tablet e per smartphone, giusto? Unico sistema operativo? Un unico sistema operativo, come sta cercando di fare Apple, come sta cercando di fare Google, così farà Microsoft per prima, per assurdo, e quindi arriverà a sprombattuto ad affrontare tre mercati con un unico prodotto, e secondo me realmente è la principale. Sì, verrà presentato nei giorni del Consumer Electronics Show di Las Vegas, che naturalmente seguiremo nel corso di 2024. Quando sarà disponibile per utilizzarlo per i consumatori? Allora, diciamo che la prima beta, quindi la prima versione non definitiva ma installabile, potrebbe arrivare già nel primo semestre del prossimo anno. Quindi io però un computer con Windows 8 lo potrò comprare tipo dall'autunno? Sì, di solito Microsoft aspetta back to school, quindi rientro dalle back vacanze to school, il ritorno a scuola dalle vacanze per avere i nuovi prodotti. Bene, ho detto che uno degli eventi dell'anno, una delle parole dell'anno, anche se forse era più legata come fenomeno, come novità al 2010, ma quest'anno torniamo ad insistere sul mondo delle applicazioni, sull'app. Massimo, per quale motivo, e soprattutto confermiamo che questo è, assieme al più ampio fenomeno degli smartphone, la vera chiave di volta? Sì, beh, in realtà è legatissimo all'esplosione del fenomeno degli smartphone. Parliamo di app perché, se naturalmente, anche se non sono state inventate quest'anno hanno avuto un enorme boom. Gli store, soprattutto i principali store, hanno raddoppiato, triplicato, decuplicato i numeri di app vendute, scaricate quotidianamente, e questo mercato è andato di pari passo con il boom degli smartphone. Quindi i consumatori hanno deciso di acquistare sempre sempre più telefoni evoluti e di conseguenza, una volta entrati in possesso di questi telefoni evoluti, hanno voluto sempre più completarli con software che poi si scarica dai principali application store. Sì. Per chi non è esperto se uno ha uno smartphone le utilizza, sa benissimo di che cosa stiamo parlando, però parliamo di una cosa che è come i programmi per il computer. Sono dei mini programmi, né più né meno, che vanno dai veri e propri programmi che usiamo quotidianamente sui PC fino a delle piccole applicazioni che ci permettono di fare, di giocare, di vedere le previsioni del tempo, di avere le news in diretta. Ormai le app coprono a 360 gradi tutto il nostro mondo reale. Adesso ci facciamo dire da Luca Figini quali sono quelle di maggiore successo. Allora, ho trovato una top 10 delle app più scaricate del 2011. La prima è Angry Birds. Angry Birds, che è un gioco, tutti lo sanno, quello degli uccellini che devono... Tutti non lo so, però diciamo molti lo sanno. Molti lo sanno, è un giochino che bisogna lanciare gli uccellini contro delle gabbiette o uccidere dei maialini verdi oppure far scappare degli altri uccellini. È talmente semplice e stupido, diciamo, che è molto divertente in effetti. Insomma. Gli americani lo chiamano addictive, cioè crea veramente dipendenza perché è divertentissimo. Sì. Sono nate delle nuove realtà. Rovio, per esempio, la software house che produce Angry Birds, attualmente è il secondo... per importanza produttore in modi di videogame e produce solo giochi per smartphone. È incredibile. È subito un po' un'azienda finlandese subito dietro Electronic Arts, che è in assoluto il più grande, produce giochi come FIFA per esempio. Quindi un gigante del mondo del videogioco che è stata raggiunta per il mercato della telefonia mobile, non in generale, però per le app siamo a questi sì, punti. Siamo a livelli enormi e soprattutto Rovio è un altro esempio. Perché? Perché dal mondo di smartphone adesso si sta spostando alle console e ai PC con Angry Birds o eventualmente con altri giochini. Sì, pensate anche, questo è interessante perché l'idea di Angry Birds è un'idea, diciamo, stupida. Cioè, sono è un gioco banale, un puzzle game banale. Molto banale, però è stata una bella idea che ha avuto successo e ha creato un'azienda, ha creato posti di lavoro, ha creato un business, eccetera, eccetera. Ha usato in modo intelligente il touchscreen per questo gioco con una serie di effetti e è immediato e quindi tutti lo usano. Tornando alla top 10, Angry Birds il primo, Facebook, seconda app più scaricata, seguita da Skype, quindi la comunicazione. Queste sono estensioni di cose che facciamo già sul computer. Esatto, diciamo. Però al quarto posto c'è un'altra volta Angry Birds con la versione Rio, che è un'ulteriore espansione, Google Maps, iBooks, ancora Angry Birds con la versione Seasons, che è una versione che cambia secondo la stazione, quindi tre titoli nei top 10, Fruit Ninja, che è un altro gioco che fa con le dita bisogna affettare dei frutti che ballano sullo schermo, Talking Tom, che è un giochino che permette di far parlare un gatto con la voce falsata, e infine Twitter. Quindi nella top 10 ci sono dei giochi e soprattutto dei social network, comunque delle applicazioni che permettono di comunicare, che quindi di fatto dimostrano che lo smartphone è un sistema per giocare e soprattutto per comunicare. Massimo, dicevamo che il costo di queste applicazioni è molto basso. Possiamo dire che nel mondo Apple sono più le applicazioni a pagamento, invece nel mondo Android sono più quelle gratuite, o non è più così? Ma guarda, appunto, bisogna sottolineare innanzitutto che ce ne sono anche tantissime gratuite. Sull'Android Store la percentuale è circa 60, 40, 70, 30, stiamo parlando 70 gratis, 30 a pagamento. Sì. Sul mondo Apple forse qualcosa di meno, però qui sono contorni, cioè, anche abbastanza sfumati, perché tanto per dare qualche numero di questi application store, stiamo parlando di 500.000 applicazioni sull'App Store, 500.000 applicazioni sull'Android Market, 50.000 applicazioni appena ufficializzate sul Windows Phone Store, quindi sul Marketplace, e un altro 50.000 per i BlackBerry. Quindi sono numeri molto molto alti. Naturalmente poi bisogna anche un po' scremare un pochino, soprattutto di più sulla parte di Android Market, forse più che sul rapporto prezzo gratuito, io forse voglio porre l'accento sul rapporto prezzo-qualità. Ancora lo store di Apple è più ordinato, è uno store dove le applicazioni sono più sicure, sono certificate, la storia l'ha dimostrato, sono certificate, c'è più attenzione a quello che finisce sullo store. Sì. Senti, io sono stato sempre piuttosto critico con il fenomeno delle applicazioni, perché ha creato dei giardinetti molto ricchi per alcuni produttori, però sono giardinetti che non comunicano l'uno con l'altro. Spieghiamo e ribadiamo che se uno, diciamo, si infila in un sistema operativo e quindi sposa o il sistema operativo dell'Apple o Android o Windows Phone o quello che vogliamo, RIM eccetera eccetera, poi di conseguenza deve scaricare le applicazioni per quel sistema operativo. E se io compro, che ne so, Angry Birds, in alcuni casi è gratuito, ma insomma, se compro una versione di Angry Birds, non è che poi se cambio telefono me la posso portare dall'altra parte. Questo è il vero punto. Cambio telefono con un altro sistema operativo. È proprio questo, cioè, una volta che tu ti sei infilato in una piattaforma, anche se vuoi cambiare telefono, avrai sempre più convenienza a comprare un altro telefono di quella piattaforma. Naturalmente questo fa il gioco dei produttori, perché una volta che sei entrato in un ambiente, tutto gioca affinché tu in quell'ambiente continui a rimanere. Se cambi telefono devi riscaricare tutto, e anche le applicazioni a pagamento le devi riscaricare anche se sono le stesse, perché sono per un'altra piattaforma. E da questo punto di vista noi ci attendiamo per i prossimi anni un cambiamento, ma del resto gli operatori sanno che succederà qualche cosa, una standardizzazione, quindi un modo per utilizzare delle applicazioni o dei servizi online da tutti i sistemi, e che ci permettono di continuare ad utilizzare questi sistemi anche se cambiamo smartphone e cambiamo sistema operativo. HTML5 sarà una delle parole chiave. Ne riparliamo tra poco, dopo le notizie di GR24. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi: 2024 radio24.it. Ci risentiamo tra qualche minuto. 2024. Riprendiamo questa puntata del 31 di dicembre 2011, siamo ad un passo dal 2012, naturalmente gli auguri per un buon anno da parte del nostro programma, della nostra piccola redazione. Vi ricordo che anche questa puntata, come del resto tutte le nostre puntate, sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Avete la possibilità di scaricare settimana dopo settimana il file MP3 di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, grazie a Carmelo Lauricella che oggi si occupa della parte tecnica. Stiamo parlando della telefonia mobile, diamo uno sguardo a questo anno che se ne sta andando, al prossimo che arriva. Abbiamo parlato delle applicazioni, in questo scenario sicuramente rimangono quasi a bocca asciutta gli operatori di telefonia mobile, perché gli operatori stanno guadagnando ancora parecchi soldi dalla voce, che consuma poche risorse di rete, e stanno certamente guadagnando sempre più soldi dal traffico internet, dal traffico dati, ma il traffico dati mette a dura prova le reti, e quindi le reti devono essere ampliate, potenziate, il traffico, soprattutto il traffico di segnalazione, l'abbiamo detto a 2024 in passato, cioè tanti piccoli dati che vanno ad aggiornare queste applicazioni che abbiamo sugli smartphone stanno crescendo in maniera esponenziale, e quindi questo traffico sta aumentando, e le reti, anche per mancanza di frequenze adeguate o comunque per difficoltà nel fare nuovi investimenti, anche se devo dire gli operatori li stanno facendo, ne parleremo anche prossimamente cercando di capire quali sono i progetti per i prossimi anni degli operatori, però sicuramente questo è uno scenario che mette l'operatore in una condizione nella quale deve potenziare le reti, ma i grandi soldi li fanno gli operatori, un po' come avviene nella internet classica, cioè nella rete fissa. Luca, questo effettivamente è un po' lo scenario. Sì, sai, l'app di fatto concretizza una paura dell'operatore, che è quella di diventare un canale vuoto, quindi sì, di fatto affitta un canale, perché hanno sempre vissuto sui SMS. Ma adesso ci sono applicazioni, strumenti che saltano anche SMS e usano la rete dati, e quindi devono abituarsi a una nuova realtà. L'operatore deve abituarsi a vendere dei servizi diversi da quelli che ha venduto finora, e non deve legarsi a un vecchio modo di fare business. Sì, lo sta facendo l'operatore? A mio parere sta cercando di entrare innanzitutto nel giro delle app per tornare ad avere una redditività come aveva sugli SMS, quindi magari stringendo accordi con Google, con Apple, per avere una percentuale delle app che vengono scaricate. Certo, deve fare molto di più, deve capire che insomma i servizi che vogliono gli utenti sono diversi. Senti, Luca, questo fenomeno dell'HTML5 è una cosa che accadrà nel 2012 o molto poco? In realtà sta già accadendo, cioè il concetto di passare dall'app alla web app, quindi un'app che vive nel browser e la incolli sul desktop del telefonino o del tablet come se fosse un servizio locale, ma in realtà si appoggia a uno remoto, sta già avvenendo. Sta avvenendo però in misura molto piccola. Potrebbe avere uno sviluppo nel 2012, però è anche vero che Android sta avendo una importanza talmente alta sul mercato che potrebbe essere rallentato dalla diffusione in massa di Android, che quindi porta le app a tutti su un'unica piattaforma. Nel 2012 forse no, ma probabilmente nel giro di qualche anno la web app diventerà la norma, perché permette di saltare anche quei vincoli che per esempio Apple impone sull'autenticazione delle app che possono essere pubblicate sull'application store. Sì, diciamo che diamo uno sguardo al dietro le quinte. I produttori di applicazioni e le aziende che erogano servizi tramite le applicazioni a volte sono un po', diciamo la verità, infastidite dall'atteggiamento che la Apple ha, molto rigido nell'approvare le applicazioni. Questo non lo puoi fare, quello non lo puoi fare, eccetera, eccetera. Ci sono casi in cui è stato superato questo vincolo. Quando tu arrivi sull'application store di Apple, devi dare una parte ad Apple e una parte al Tieni Tutti. Sì. Tipicamente in Italia è il 70-30. In altri paesi è 60-40, dipende, a seconda, può arrivare anche l'80-20, dipende dagli application store che uno utilizza. La parte più grossa la tieni tu e il resto lo dai alla Apple. Quindi tu regali un terzo a Apple, sì, perché ti ospita, perché regali, ti fa da canale, riconosci la distribuzione che fa Apple. Con la web app salti completamente, quindi nel caso in cui tu decidi di venderla, decidi di vendere la pubblicità all'interno dell'applicazione, tieni il 100%, ma soprattutto salti tutti i paletti. Per esempio Playboy ha deciso di fare una web app invece di fare un'app. Lo stesso sta tentando di fare il Wall Street Journal o il Financial Times, quindi di permettere di arredare meglio il sito web in modo tale che si veda meglio sullo smartphone e sul tablet, in modo tale che diventa un'app a sé stante senza avere l'applicazione dedicata sul... Sì. Anche qua torniamo indietro, nel senso che torniamo al mondo internet vero e proprio, perché la web app è sostanzialmente un sito internet ottimizzato per lo schermo del telefonino. Ma da ex programmatore ti devo dire che io apprezzo molto le app, perché si torna alla logica della programmazione, cioè sul PC si era un po' persa la logica di ottimizzare il software, di stare attenti alle risorse, di fare in modo di non occupare troppo. Ultimamente si vedono programmi veramente mastodontici, cioè dei macigni che quando li installi ti rallentano completamente il PC. Qui invece si è tornato alla logica di preservare la risorsa, di ottimizzarla, di usarla bene, di non incidere troppo e di garantire una freschezza anche nel tempo di accesso. Prima di darvi 5 consigli, 5 applicazioni che la redazione di Cellulare Magazine e di Smartphone Magazine consiglia agli ascoltatori, Massimo, volevo da te uno sguardo sul mercato, un parere. Allora, stiamo vivendo momenti piuttosto difficili e molti mercati sono piuttosto in difficoltà. Pensiamo, giusto per fare un esempio molto chiaro a tutti, cioè il mercato delle automobili è in crisi. Il mercato della telefonia mobile, degli smartphone in modo particolare, come lo definisci? È un mercato che gode di salute perché la gente vuole questi strumenti e quindi le cose vanno bene, o ci sono difficoltà anche in questo mercato? Tu che hai insomma quotidianamente rapporto col mercato, produttori, venditori, eccetera, eccetera. Ma guarda, quando si parla di telefonia cellulare oggi, secondo me è molto importante dividere i telefonini tradizionali dagli smartphone. I telefonini tradizionali sicuramente non costituiscono più un grande valore per i produttori, quindi se ancora sono a numero le unità più vendute, la redditività è scarsa. Quindi questo cosa succede? Succede che il segno sui numero di pezzi è meno e il segno sul valore è due volte meno. Quindi da questo punto di vista possiamo definirlo, quello dei feature phone, un mercato che non sta benissimo. In crisi? Va bene, in crisi. Naturalmente c'è l'altra parte, che è il mercato degli smartphone, che sta crescendo, stiamo arrivando a 50-50, quindi comunque è un mercato che sta invadendo completamente tutta l'area, ed è un mercato in assoluta crescita, sia a numero di pezzi, sia a valore. E se il mercato in generale complessivo della telefonia cellulare quest'anno non segna sicuramente un meno a pezzi, ma segna un più a valore, è completamente merito degli smartphone che naturalmente sono tutti telefoni piuttosto costosi e che danno tanto valore, quindi tanto ricarico, per dire una parola che tutti possono comprendere, anche a chi li produce. Quindi se nel complesso il mercato fa un più è grazie agli smartphone. In prospettiva futura naturalmente questo trend non potrà che stabilizzarsi e concretizzarsi, sì, e ancora incentivare. Ma gli operatori del settore sorridono o quando tu parli con loro tutti si lamentano? Dipende da cosa fanno, dipende da cosa producono. Naturalmente come sempre però in questi momenti... tutti si stanno spostando sugli smartphone. Assolutamente, ci sono degli operatori che sorridono e sorridono parecchio perché hanno avuto grazie anche all'adozione degli smartphone che magari prima non facevano un aumento delle loro quote di mercato, e altri che sorridono un po' meno. Le 5 app da scaricare se avete in mano uno smartphone o se ve lo hanno regalato, insomma se volete consigliarlo al vostro amico, al vostro figlio, al vostro papà, alla mamma, eccetera, eccetera. Luca. Come starter kit io consiglio... Ah, lo starter kit mi piace. WhatsApp, sì. Che è un'app per dialogare, lavora sulla rubrica presente, è utilissima e permette di fare anche di mandare file multimediali, di fare delle cose molto, molto interessanti. Funziona anche se uno ha telefoni di marche o sistemi operativi diversi, giusto? La cosa bella è che è una chat fra sistemi operativi, quindi è compatibile con Windows Phone, con Symbian, con iPhone, con iOS, Android e BlackBerry. Quindi si paga? Allora, sull'iPhone si paga, altrove è gratuito. A conferma del fatto che sull'App Store a volte si guadagna bene, si guadagna di più, e quindi diciamo, c'è maggiore propensione all'acquisto, e quindi i produttori di WhatsApp hanno detto no, lì la facciamo pagare. Sì, poi sulla iOS invita molto a scaricare, quindi è più facile far pagare rispetto ad altri. Benissimo, WhatsApp è il primo consiglio. WhatsApp, poi ci saranno quelli che scrivono, ci spiegate come si scrive, vabbè, fate un po' di prove su internet. Esatto. Poi la seconda applicazione che io consiglio è il Kindle, e quindi l'applicazione di Kindle per leggere gli ebook. La consiglio perché secondo me bisogna un po' iniziare a sperimentare questa nuova logica di lettura, che è molto bella, e che ci sono dei libri gratuiti che si possono subito scaricare in italiano, e quindi io mi permetto di consigliarvi di provare a leggere in elettronico. Io mi permetto però di essere, ma questo l'ho detto più volte, abbastanza critico nei confronti della logica e della filosofia di Amazon, che lega molto al proprio store. Cioè se uno compra il Kindle oppure se uno acquista scarica l'applicazione per il Kindle, sì è vero, può con una serie di cose complicate leggere libri anche di altri venditori, però sostanzialmente devi comprare da Amazon. E a me sta cosa qua puoi, piace puoi poco, anche trovare il metodo per mandare dei file, però, che sì, è un po' scomodo, ma ci sono, insomma, tanto per provare e vedere com'è. Esatto. Allora, tra poco la terza applicazione che vi consigliamo. 2024. Alcuni consigli per chi ha uno smartphone per provare alcune applicazioni. Luca Figini, la terza di queste 5 applicazioni che abbiamo scelto. Terza applicazione è Liar. Allora, Liar è un'applicazione di realtà aumentata. È scritto proprio così, Liar con la Y. Esatto. E ti permette di utilizzare la fotocamera del telefonino come per inquadrare lo spazio intorno a te, e quindi per ricevere una serie di informazioni relativamente a dove ti trovi. Quindi, tipo, fammi un esempio. Tipo i negozi, i cinema vicini, dove sono i taxi, oppure anche informazioni culturali, turistiche. Ok, però facciamo un esempio proprio legato alla realtà aumentata, che è questo fenomeno di cui parliamo. Adesso devo dire che non mi sembra che sia ancora esploso, però tipo Piazza del Duomo a Milano, io accendo Liar, quindi mi inquadro col telefonino il Duomo di Milano e ottengo informazioni storiche sul Duomo di Milano con un fumettino che me lo indica e una serie di altri punti sparsi sullo schermo che mi indicano per esempio dove è il bar più vicino, dove è la gelateria, oppure dove si trova il ristorante più buono dove andare a mangiare sushi in quel momento. Questo è Liar. Quarta applicazione? Quarta applicazione è SoundHound, o in alternativa Shazam. Sono molto simili e permettono di riconoscere il brano musicale che si sta ascoltando, quindi dall'autoradio o da un giradischi qualunque. Mostra Shazam, mostra anche il testo, quindi si può fare anche il karaoke seguendo in sincrono le parole. SoundHound si può anche fischiettare volendo, quindi se proprio non si ha, ma si ritorna, capisce? capisce Shazam, è molto precisa, è incredibile. Sì, però ecco, SoundHound, come si chiama, come si dice? SoundHound, con l'H tra la D e la... SoundHound, sì. Dico, se tu fischietti, una volta si faceva, ma si fa ancora oggi, chiami la radio privata, magari locale, la segretaria dice, ma volevo quella canzone che fa pipipipipipi. Allora, questo è un sistema che fa una roba analoga, sì, ma capisce? Di essere molto intonato, bravo a fischiare. Tu sei bravo a fischiare? Ma insomma, me la cavi. Allora ti riconosce. Dai, di essere abbastanza preciso quantomeno nell'intonazione, insomma, di un po'. Però pensate l'evoluzione di questi sistemi, che è incredibile. Quinta applicazione. Allora, e poi chiudiamo e ci salutiamo. Quinta applicazione, consiglio Facebook Messenger, che è l'applicazione che permette di utilizzare solo ed esclusivamente il servizio di messaggistica interno a Facebook, quindi la chat o le mail, la posta elettronica interna. Lo consiglio perché? Perché tra i teenager e le nuove generazioni sta facendo proseliti, perché Facebook è poi utilizzato come il principale strumento di comunicazione tra i più giovani. E lo consiglio perché è molto comodo, perché permette di entrare in contatto con tutto il panorama di utenti di Facebook proprio, tra i propri amici ma anche non, e permette di scrivere come se fosse una vera mail. È molto bello, è molto utile soprattutto per chi poi usa tanto Facebook o per chi invece vuole sperimentare mobilità. Bene, questi sono i consigli che vi abbiamo dato oggi per provare alcune applicazioni, poi potremmo per le prossime settimane consigliarne molte, magari nella nostra pagina Facebook apriamo una discussione proprio su questo. Grazie a Luca Figini, buon anno anche a te, ciao. Grazie a voi, buon anno. E un buon anno e grazie anche a Massimo Morandi, direttore di Cellulare Magazine. A presto, Massimo. Grazie Enrico, a presto e un augurio di buon 2012 a tutti gli ascoltatori. Adesso cambiamo decisamente argomento, facciamo il punto sulle tecnologie spaziali. Molto spesso molte cose che vengono utilizzate sulla Terra vengono pensate, progettate prima di tutto per lo spazio, per raggiungere luoghi che stanno oltre l'atmosfera terrestre. È un'industria molto importante, anche molto affascinante, pochi ne parlano, ma l'Italia rappresenta ancora tecnologicamente un'avanguardia in questo mondo, dove stanno crescendo anche nuove nazioni a partire dalla Cina. Ne parliamo con Luigi Bignami, che è un giornalista esperto in scienza, in tecnologie spaziali, con una grande passione ma anche una grande competenza nel mondo dello spazio. Luigi, bentornato a 2024. Grazie mille. Vorrei iniziare con uno sguardo a questo anno, a metà anno, a luglio. Abbiamo definitivamente messo in pensione lo Space Shuttle, un grande, grandissimo programma spaziale che è terminato. Adesso gli Space Shuttle vengono trasferiti in alcuni musei negli Stati Uniti. Domanda semplice: per quale motivo è stato chiuso questo grande programma spaziale? Perché queste navette sono ormai obsolete, bisognava sostituirle. Avevano fatto in tutto 135 voli e quindi, nonostante fossero state rifatte più volte, perché effettivamente i computer erano stati tutti cambiati, le parti meccaniche erano state tutte cambiate, era ormai una tecnologia degli anni 70 e 80, quindi non si poteva più andare avanti a costruire nuovi shuttle eventualmente con questa tecnologia. Nel passato gli americani avevano tentato di costruire il successore dello shuttle, ma per questioni economiche soprattutto non si era arrivati a questo fine, cioè non si è arrivati ad un sistema di trasporto estremamente sicuro che potesse portare gli astronauti della NASA, e quindi qui è la NASA che si faceva carico della sicurezza degli uomini nello spazio, con quel budget che la NASA aveva negli anni scorsi. Per cui ad un certo punto si è deciso che il futuro del trasporto spaziale non fosse più lo shuttle, sì, ma fosse un'altra strada. Anche perché stiamo parlando di un sistema molto sofisticato, molto interessante, ma anche molto costoso. Io ricordo ad esempio un astronauta americano che diceva: abbiamo costruito una Maserati per andare alla stazione spaziale internazionale, dobbiamo invece costruire una Toyota Camry, quindi una macchina più economica, molto affidabile. È un po' quello che sta succedendo, e soprattutto in che modo sta succedendo questa transizione da tecnologia sofisticatissima ma molto costosa a tecnologia forse un po' meno sofisticata ma a basso costo? La NASA aveva intenzione di costruire davvero una navicella aereo che potesse partire e andare alla stazione spaziale, tornare dopo poche ore o al massimo qualche giorno, fosse pronta per un nuovo volo. Così si sarebbero abbattuti tantissimi costi, ma questo non si è riusciti. Allora si è fatto un po' un passo all'indietro, diciamo forse tra virgolette questo passo all'indietro, cioè si è tornato alla tecnologia del razzo con una navicella che permette il trasporto degli uomini nello spazio e poi il rientro a terra. Quello che oggi si sta puntando, su cui si sta puntando, è il fatto di poter avere tutta una serie di pezzi che possano essere riutilizzati nel tempo. Quindi la navicella non sarà più come la navicella Apollo, anche se gli assomiglierà moltissimo dal punto di vista estetico, ma sarà una navicella che potrà essere riutilizzata forse addirittura una decina di volte, e questo lo stanno facendo diverse società, alcune società private, altre società che invece stanno lavorando proprio per una navicella che la NASA ha pensato negli anni scorsi come navicella per sostituire lo shuttle, che è la nota Orion. Ebbene, questo è il passaggio prossimo, quindi avere qualche cosa che abbatta di molto i costi, perché un razzo di questo tipo che abbia parti riutilizzabili è molto meno costoso che non avere uno shuttle, perché lo shuttle è una navicella che deve salire nello spazio e poi atterrare come un aereo, una cosa molto complicata. Invece queste saranno navicelle che verranno lanciate con dei razzi e ritorneranno a terra con un paracadute, che è molto molto più semplice ed è molto meno costoso che non avere questa navicella che fa spola terra spazio. Quindi dobbiamo immaginarci un sistema uguale a quello che è stato utilizzato per andare sulla Luna. Parte un razzo e poi la navicella, appunto, gli stadi si staccano e magari non si perdono ma si recuperano, però insomma concettualmente cambia poco, e poi la navicella torna. Quando parliamo di costi parliamo di, perché ricordo che un lancio dello Space Shuttle costava 700 milioni di dollari. In questo caso, quando parliamo di basso costo, parliamo di? Sempre di qualche centinaio di milioni di dollari, però ovviamente il lancio, cioè noi possiamo fare 7 lanci con una... magari, col budget di uno shuttle. Di uno shuttle solo, quindi certamente non è come andare da qui, da Milano a Roma con una macchina, però sicuramente si abbatte notevolmente quello che è il costo di ogni singolo lancio. Senti, andare nello spazio per fare che cosa? Ci sono tanti motivi ovviamente, che tutti potrebbero essere un po' esaltati dagli appassionati dello spazio. Chi invece non è appassionato dello spazio potrebbe dire: ma che cosa ci andiamo a fare ugualmente? Perché innanzitutto c'è il desiderio dell'uomo di conoscere. Non dobbiamo mai dimenticare che lo spazio è la nostra nuova frontiera. Andando indietro nel tempo, da che l'uomo sapiens ha lasciato l'Africa, è sempre stata una ricerca continua di nuovi spazi. In questo momento il nuovo spazio è al di là dell'atmosfera terrestre e forse le profondità degli oceani, che sono altrettanto poco conosciuti. Quindi c'è questa ricerca di conoscere quello che sta al di là della nostra atmosfera. Un altro motivo è ovviamente quello di una ricerca che possa avere anche dei benefici sull'uomo e sulla quotidianità, perché davvero nello spazio si possono fare ricerche di medicina, di fisica o comunque anche di leghe, dove sulla Terra... Materiali che sulla Terra non si possono costruire, non si possono studiare nemmeno a causa proprio della gravità. Invece in orbita terrestre, dove non esiste la gravità, esiste una microgravità, questi esperimenti si possono fare. Quindi si possono unire atomi dove sulla Terra non si potrebbero, si possono unire molecole, si può cercare di capire il comportamento di alcuni animali ai quali si danno determinate medicine, cosa che sulla Terra avrebbe effetti diversi proprio perché esiste la gravità. Allora esistono queste ricadute. Certo, non ci dobbiamo chiedere: ma domani mattina che cosa mi viene in tasca? Sono quei lavori che entrano poi nelle università e hanno anni e anni e anni di elaborazione. Infatti forse quello che è il peccato della ricerca scientifica spaziale è che non sentiamo quasi mai che un astronauta, magari l'astronauta italiano che è andato nello spazio, è rimasto su 6 mesi come ha fatto Nespoli proprio nel 2011, è tornato a casa e beh, che cosa ci hai portato giù? In realtà Nespoli non ci ha portato giù niente, è stato l'astronauta che si è fatto carico di esperimenti che arrivano un po' da tutte le università del mondo, diciamo così, perché ormai le università lavorano integrandosi l'una con l'altra, e lui è andato su per fare questi esperimenti, li ha riportati a terra ed ora sono nei laboratori per i confronti, per le elaborazioni. Quindi ecco che poi ci sfugge quella che è la ricaduta, però esistono queste ricadute. E poi non dimentichiamoci che c'è tutta la parte di business spaziale commerciale, di questo parliamo tra poco, riprendiamo questa puntata di 2024 tra pochi minuti. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, l'ultima dell'anno del 2011, naturalmente gli auguri anche da parte della nostra redazione. Io sono Enrico Pagliarini, potete scriverci a 2024, scritto in cifra 2024 e radio24.it. Anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast, quindi potrete riascoltarla scaricando il file MP3, una cosa molto comoda, e vi consiglio di abbonarvi gratuitamente a questo servizio. Stiamo parlando di spazio con Luigi Bignami. Dunque Luigi, c'è una parte del mondo spaziale che è anche un grande business, legata sostanzialmente a che cosa? Perché io guardo ogni settimana i programmi di lancio in tutto il mondo e vedo che quasi ogni settimana lanciano un razzo. Allora il business è legato a che cosa? Soprattutto per i satelliti per telecomunicazioni in genere devono continuamente essere reintegrati, perché dopo 10-15 anni i satelliti o sono diventati troppo vecchi o non riescono più a supportare quel numero di quella quantità di informazioni che passano e quindi vanno sostituiti, oppure il motore si scarica e quindi cadono. Esattamente, anche questo succede, perché può essere colpito da un micrometeorite, può essere colpito da un'esplosione solare, quindi il satellite va. E noi sappiamo che questa ricerca di satelliti per le comunicazioni è davvero enorme, tutti vogliono il proprio satellite, no, per comunicazioni. Poi c'è il business dei satelliti per i GPS. Noi sappiamo che il nostro GPS del cellulare, dell'automobile, contatta dei satelliti americani, e ce ne sono 36 di questi satelliti, che però ogni tanto qualcuno va fuori orbita, si rompe, deve essere sostituito. Ma non solo, ogni grande nazione oppure ogni grande gruppo di nazioni, come ad esempio l'Europa, desidera mettere in orbita il proprio gruppo di satelliti GPS, perché non dobbiamo dimenticare che quello degli americani ha uno scopo sì civile ma anche militare. Cioè è nato come militare. Esattamente. E rimane militare, quindi tu dici in caso di problemi in giro per il mondo potrebbero gli americani decidere di... spegnere. O spegnerlo, comunque degradare il segnale al punto che magari io con la mia automobile non riesco più ad andare dal punto A al punto B. È proprio così, okay. È già stato fatto questo con la guerra dell'Iraq, gli americani fecero questo, quindi io mi trovo senza GPS ed ecco perché pensare la vita senza GPS oggi per molti potrebbe sembrare strano, anche perché ci sono un sacco di servizi che, pensate alle informazioni sul traffico, che sono basate su informazioni che arrivano da sistemi, ne abbiamo parlato anche 2024. Quali sono le nazioni o appunto i gruppi di nazioni che stanno facendo? Perché del Galileo europeo molti hanno sentito parlare, ma non c'è solo il Galileo europeo. Esattamente, c'è il sistema russo che esiste già, di solito noi non ci colleghiamo con i satelliti russi, però loro hanno il loro sistema che è un po' vecchiotto come il GPS americano, per cui in questo periodo stanno sostituendo alcuni di questi satelliti. E poi c'è la Cina che sta mettendo in orbita il loro sistema di GPS e proprio da alcuni giorni a questa parte ha acceso i GPS che permettono ai cinesi di avere un dettaglio nei loro movimenti, nei loro spostamenti estremamente sofisticato, ancor più sofisticato di quello degli americani, perché gli americani non ci danno quella precisione come loro la utilizzano per scopi militari. Per loro ce l'hanno. Ce l'hanno, certamente, noi non l'abbiamo. Invece i cinesi e i russi hanno questa precisione. E poi c'è il nostro, come dicevi tu appunto, GPS europeo che è ai suoi albori, sono stati lanciati i primi due che funzionano perfettamente ed ora ancora dovremo attendere i prossimi lanci per avere il nostro GPS, che sarà quasi totalmente, quasi esclusivamente civile, e quindi e ci darà un maggior dettaglio rispetto a quello americano. A proposito di business, prima di parlare anche di altri scenari futuri, c'è una cosa interessante, e lo diciamo anche in prospettiva 2012, il turismo. Ogni tanto si parla, però si parla del turismo spaziale come una cosa che chissà quando avverrà. Come stanno le cose? Invece c'è un grande movimento, ne sentiremo parlare proprio a partire dal 2012. Dovrebbero riprendere innanzitutto i voli alla stazione spaziale, questo non si sa ancora bene. Per i privati. Al costo di 45-50 milioni di dollari. È una cosa che si può fare. Esatto, ricordiamoci questa cifra per avere un'idea. Con le Soyuz russe, perché in questo momento, a parte i cinesi che però non offrono passaggi, sono gli unici che permettono di portare uomini sulla stazione spaziale, perché non avendo più gli shuttle ed essendo ancora non pronte le altre navicelle, bisogna passare per forza dei russi. Ovviamente loro, avendo il monopolio, hanno alzato il costo da 25-30 milioni di dollari circa 4-5 anni fa, di botto a 50 milioni di dollari. Infatti gli americani devono si sono pagare un po' indispettiti, certo, perché devono pagare per mandare i loro astronauti, così come gli europei e così anche come il singolo cittadino che vuol fare un volo. E ci sono già almeno 8 persone che stanno attendendo comunque questo volo. Addirittura uno dei turisti che c'è stato vuole rifarne un altro. E quindi, come già fece il sudafricano, ha fatto 2 voli proprio perché aveva disponibilità economiche. Mandiamo invece a chi non ha queste decine di dollari, ma ha qualche centinaio di migliaia di euro, di dollari che si voglia, per fare un volo nello spazio. Ebbene, dal 2012 la Virgin, che è una società privata e che ha già ormai tutto pronto, inizierà i suoi voli a 100 km di quota. Sarà un volo di poche ore, sarà un volo effettuato con un grande aereo che porterà un piccolo aereo sotto la pancia. Arrivati a 17 km di quota, questo piccolo aereo accenderà un motore che è una specie di razzo e porterà i 7 uomini che ci staranno su questa navicella, su questa navetta, fino a 100 km. Lì si proverà l'assenza di gravità, si vedrà il mondo come lo vedono gli astronauti. Si vedrà il cielo come lo vedono gli astronauti, si rimarrà in quella situazione per 6-7 minuti e poi questa navetta ritornerà a terra come una specie di foglia, come una liante, e poi ritornerà sulla pista. È già stato costruito ed inaugurato lo spazioporto negli Stati Uniti e c'è una richiesta di spazioporti un po' in tutto il mondo, in Spagna, in Africa addirittura. I sudafricani vogliono costruire uno spazioporto. I giapponesi vogliono costruire uno spazioporto per il turismo spaziale, perché le persone che si sono messe in lista per questo tipo di voli è enorme. Ma si pensi che la cosa è talmente così viva che molti astronauti che hanno lasciato la NASA, che stanno lasciando la NASA, vanno per diventare piloti su questi aerei, perché si crede moltissimo in questo tipo di turismo, fino al turismo dei più poveri, di quelli che hanno a disposizione soltanto qualche migliaio di euro, 7, 8, 10 mila euro, dove potranno andare fino a 30 km di quota attraverso dei palloni che permetteranno di arrivare a questa altezza rispetto alla superficie della Terra. Certamente vedranno la Terra un po' più curva, ma non la vedranno come coloro che arrivano a 100 km o a 400 km. Però esiste questa possibilità, fino al volo parabolico, che permette di provare solo l'assenza di gravità, e quindi è un volo che ti porta a 11.000 metri, poi si cade in caduta libera e lì si prova proprio l'assenza di gravità, e lì quotidianamente ci sono voli. Anche per i privati. La Space Adventure è questa società americana che organizza questi voli, ti organizza 3 giorni di avvicinamento a questo tipo di volo, poi ti fai il tuo volo e tu provi per 7, 8, 10 volte questa assenza di gravità, che dura dal minuto ai 3 minuti, e almeno provi quelle che provano gli astronauti. E qui i costi sono veramente limitati, si parla di 2, 3, 4 mila euro, ma in America c'è una fila di persone che quotidianamente, ma soprattutto nei weekend, provano questo tipo di volo in assenza di gravità. Incredible, non potrei vedere, incredibile. Senti, a proposito degli Stati Uniti, visto che siamo ritornati negli Stati Uniti, i nuovi progetti, sia privati sia della NASA, dovrebbero vedere la luce quando? Entro poco o entro qualche anno? Entro pochissimo per i privati. 2012, primi mesi del 2012, è stata fissata una data, ma noi sappiamo che le date poi possono... Ah, nello spazio, si capisce. Ecco, comunque, 8 febbraio c'è la SpaceX che lancerà un proprio razzo, il Falcon 9, e con una propria capsula, la Dragon, del materiale alla stazione spaziale. La NASA ha dato piena fiducia a questa società perché ha già lanciato due volte un razzo più piccolo, ha già lanciato il Falcon 9 che ha funzionato perfettamente, e quindi ecco che ha dato proprio un aiuto anche economico alla società per lanciare questa capsula che porterà del materiale, ma la capsula, volendo, dicono i costruttori, volendo è già pronta per lanciare degli uomini. Alla NASA dice calma, stiamo sono calmi, siamo un po' prudenti, certo. Però se davvero i lanci dovessero andare bene come sono andati bene i primi, si parla che per il 2014-2015 potrebbero essere lanciati i primi uomini. E questa è davvero una rivoluzione nel campo dell'astronautica, perché questa società, partita da una persona che aveva tanti soldi come pallino per mettere a disposizione, è andata a cercare dalla Boeing gli uomini migliori, dalla Lockheed gli uomini migliori, dalla NASA gli uomini migliori, ha chiesto in giro per il mondo gli uomini migliori, venite da me che io vi do uno stipendio a livello di NASA, ha creato un team che in pochissimi anni ha fatto quello che la NASA ha fatto in 40 anni. C'è anche un italiano, che l'ingegner Villa, che era negli Stati Uniti a cercare lavoro, è andato a bussare a questa porta, le sue capacità sono state subito messe in luce al 100% ed è responsabile del lancio di questo razzo. Quindi veramente c'è un desiderio da parte dei privati di realizzare questo business, ma la SpaceX, questa società, ha già in cantiere un altro razzo ancora più potente che sarà in grado di lanciare degli uomini addirittura sulla Luna. E la Space Adventure ha già dato fiducia per un lancio da prevedersi prima del 2020 attorno alla Luna per portare dei turisti per un 8 giorni di viaggio, andare attorno alla Luna, rimanerci un giorno o due, vedere la Luna da 50-60 km d'altezza e ritornare a Terra. Sembra qualcosa che se si parlasse, si dicesse nel 2050, vabbè, no, allora... 2020 e siamo, come dire, fra 8 anni, poi, ma se tu dici prima del 2020... Nel 2012, cioè quest'anno, nel 2012 si parte con questo razzo che è davvero innovativo, davvero rivoluzionario, fatto in casa. Il gioco, cioè la capacità, è che questa società ha costruito un grandissimo hangar dove tutti gli ingegneri si parlano a voce, non è come alla NASA o la Boeing. Houston, Cape Canaveral. Esatto, per cui se c'è un problema non devo mandare quel pezzo dall'altra parte degli Stati Uniti per verificare se funziona. Lì l'ingegnere elettronico, dove la sua scatoletta elettronica non gli funziona, non gli entra, va dalla porta accanto e dice: senti, c'è questo problema, lo risolvono, ed è per questo che in pochi anni sono riusciti ad arrivare a questo livello, certo con un budget dietro un po' astronomico, ovviamente. Sì, esatto, a proposito di spazio. Ma la SpaceX non è l'unica società, ci sono altre società che stanno lavorando in questo senso. La stessa Boeing sta costruendo una navicella per portare nello spazio 6 uomini, la Lockheed lavora però per costruire una navicella su finanziamenti della NASA, che è appunto l'Orion o l'Orion, a seconda di come la si vuole chiamare, e poi ce ne sono anche altre. C'è una società che sta costruendo uno piccolo space shuttle in grado di addirittura proprio entrare in orbita attorno alla Terra. Si parla di 2017, ma lo sta costruendo. È riuscita a superare quei problemi che la NASA non era riuscita a superare, ma non per incapacità, ma proprio perché per un meccanismo che si era venuto a creare di grandissima industria, quindi di costi pazzeschi, che invece le piccole società riescono a tagliare. Ecco. Esatto, uno vista dall'Italia potrebbe pensare che con l'esperienza delle piccole aziende italiane, saremmo stati capaci che i budget non esistono qua. Esatto. E poi purtroppo non esiste nemmeno la sensibilità per questa nuova frontiera dello spazio, anche se in realtà l'industria italiana rappresenta ancora oggi una grande frontiera nel mondo dello spazio, perché noi abbiamo ancora oggi delle grandi industrie, sbaglio? Ma certamente, noi abbiamo le industrie spaziali più avanzate. Se la NASA avesse deciso di continuare il suo programma lunare, la Alenia Space avrebbe costruito i moduli per far resistere degli uomini sulla Luna per 6-7 mesi. Adesso Luigi c'è la viabilità, ci fermiamo per poco, poi riprendiamo da qua, perché è bene ricordare che anche una buona parte della Stazione Spaziale Internazionale dei moduli abitativi è stata costruita da noi italiani tra poco. 2024. Dicevamo poco fa che dovremmo essere più orgogliosi e anche più consapevoli della capacità tecnologica dell'industria italiana quando parliamo di spazio. Tra l'altro, Luigi, buona parte dei moduli abitativi della Stazione Spaziale Internazionale sono stati costruiti qui in Italia. Una parte della stazione spaziale è stata costruita dalle società italiane, i grandi moduli, e addirittura gli astronauti chiamano Piazza Italia, dove ci sono due moduli europei, il modulo europeo, e poi c'è un nodo costruito, la cupola degli astronauti, chiamano Piazza Italia quel luogo perché sembra che lì si respiri meglio, ma lo dicono sinceramente tutto questo per dire che comunque la tecnologia italiana non è seconda nessuno, anche l'elettronica italiana, molte sonde che stanno esplorando lo spazio hanno elettronica italiana, hanno strumentazione italiana e hanno anche gli uomini della ricerca scientifica italiana a bordo di queste. Quindi l'Italia non è seconda a nessuno. Il razzo Vega, che è uno dei nuovi razzi che dovrebbe partire dal 2012 dalla Guyana francese, è stato concepito in Italia, è stato pensato in Italia, poi è diventato un progetto europeo, ma è stato concepito in Italia. In Sardegna si sono provati i suoi motori, e quindi vuol dire che la tecnologia italiana è nello spazio. Se davvero ci appassionassimo allo spazio, potremmo ottenere dei risultati incredibili. Sì, hai fatto bene a ricordare il razzo Vega, che partirà appunto tra poche settimane dalla Guyana francese, prodotto in buona parte dalla Avio di Torino. Luigi, gli Stati Uniti, c'è chi dice che sono in declino, certo le difficoltà non vanno nascoste, ma dal punto di vista della ricerca spaziale, della conquista dello spazio, come stanno le cose in realtà? Allora, fino all'anno scorso era una grande delusione da parte degli appassionati dello spazio, perché Obama era arrivato dicendo non abbiamo i soldi per ritornare sulla Luna. C'era questo progetto bellissimo di riportare l'uomo sulla Luna, costruire una base sulla Luna e poi l'uomo su Marte, addirittura date vicine a noi, 2020 la Luna, 2030 Marte, 2035 Marte. Poi i soldi non c'erano per delle difficoltà tecniche enormi. Allora, delusione grandissima. Ma qualcuno nei cassetti del JPL o di altri enti aveva qualcosa che permettesse di fare un rilancio. E allora Obama ha creduto a questo rilancio, cioè utilizzando numerose parti dello Space Shuttle e di tecnologia già esistente, ha detto ok, costruiamo un razzo che ci riporti al Saturno 5, quello che permetteva all'uomo di abbandonare la Terra e di andare verso la Luna. Questa volta, e speriamo che non si cambi più idea, il nuovo obiettivo è un asteroide. È un asteroide che dovrebbe essere raggiunto tra la fine del 2020 e gli inizi del 2030, insomma, in quel decennio lì. È un razzo che ormai è partita la sua costruzione, si stanno davvero mettendo a posto i pezzi, si stanno provando i pezzi, i motori del secondo stadio ad esempio, che sono una parte nuova, sono stati provati almeno 7 volte quest'anno dalla NASA, e quindi le parti principali vengono proprio dallo Space Shuttle. Questo razzo quindi non solo permetterà di portare gli uomini in orbita terrestre o carichi molto pesanti in orbita l'orbita terrestre, ma permetterà di valicare l'atmosfera terrestre, si dice così, cioè di andare da prima, oltre esatto, da prima di scendere su un asteroide e poi di scendere su un satellite di Marte, il satellite Phobos, e quindi poter osservare da vicino Marte da parte dell'uomo e studiare contemporaneamente il satellite lì attorno. Perché non si va più su Marte, perché non si va più sulla Luna? Perché i costi per costruire le navicelle che scendono sulla Luna o che dovessero scendere su Marte sono altissimi. Il modulo lunare che andò sulla Luna nel 1969 oggi è improponibile, perché è talmente pericoloso, è talmente privo di sicurezza che oggi nessun astronauta accetterebbe di salire, ma nessun uomo della NASA accetterebbe di lanciare nello spazio una cosa del genere. Quindi il problema è che se io voglio mandare degli uomini in sicurezza, devo costruire una cosa sicura. Nulla è sicuro al 100%, ma al 99,9% lo deve essere. E i costi per un tipo di missione dove far scendere degli uomini sulla Luna o far scendere degli uomini su Marte sono altissimi. Io ho una speranza, visto che mi hai chiesto un parere che nel mese di agosto, quando scenderà Curiosity, questo rover della NASA che è in viaggio, è stato lanciato qualche settimana fa, a novembre, e dovrebbe scendere su Marte, no? Questo veramente rover che è grande come una macchina, bellissimo. Stupendo, trovi finalmente un essere vivente, un batterio o qualcosa. In questo caso non ci si può più tornare indietro, allora sì, dovremmo andare su Marte, mandare degli uomini. Allora in quel caso forse la Terra potrebbe unirsi tutta quanta, europei, americani, russi, cinesi, per mettere assieme tutte le finanze per poter lanciare degli uomini su Marte. Ebbene, speriamo davvero, lì dovrebbe esserci la chiave di volta per poter mandare l'uomo su Marte. Cioè, avevano provato anche i russi a mandare una sonda su Marte, però hanno fatto cilecca, giusto? Ahimè, in questa crisi pazzesca di lanci dei russi, dove il terzo stadio sembra davvero qualcosa che non funzioni mai, hanno lanciato questa bellissima missione che era la Phobos Grunt, che doveva lanciare una sonda attorno a Marte e una scendere su Phobos, prendere un campione e portarlo a casa. Era una cosa eccezionale, addirittura era stata rinviata di 2 anni la missione perché si voleva essere sicurissimi. Ahimè, il terzo stadio non ha funzionato. Ora questa navicella, terzo stadio del razzo, esatto, del Soyuz, e non ha funzionato come doveva. La navicella è in orbita terrestre e dal 12 al 14 gennaio ricadrà sulla Terra. Come al solito non sappiamo esattamente dove cadrà, qualcuno ha fatto i calcoli, dovrebbe cadere in Kazakistan, però ci cadrà addosso, come è già successo negli ultimi 3 o 4 mesi, dove diversi pezzi spaziali ci sono caduti addosso. Anche questo qua rientrerà. Perché i russi hanno infilato una serie di fallimenti pazzeschi. Esattamente. Strano, perché questo razzo è lo stesso razzo che porta gli uomini, però tutto è iniziato a febbraio del 2011 con un fallimento, ma nessuno ci ha fatto molto caso, poi in agosto un altro fallimento, poi anche lì c'è stato un momento di grave crisi perché era l'unico razzo che permettesse di portare gli uomini nello spazio. Allora la NASA ha detto no, fermi tutti, vogliamo capire cosa è successo. I russi avevano dimostrato di aver capito qual era il problema e di averlo sistemato, era una valvola di un motore che non funzionava, era una cosa semplice, quindi poi gli uomini sono stati lanciati e per fortuna è andato bene, però dopo è stato lanciato nuovamente per mettere in orbita dei satelliti per telecomunicazioni ed è fallito. Anzi, un pezzo, proprio 10 giorni fa, un pezzo di questo razzo che è caduto in Siberia è finito sul tetto di una casa con dentro una famiglia che per fortuna non è stata colpita, però è una delle poche volte che un razzo è finito proprio addosso a delle persone, diciamo così. E quindi insomma c'è questo grosso problema, tant'è vero che Putin si è arrabbiato e ha licenziato tutto un gruppo di ricercatori, di tecnici, che ha fatto, che ha permesso, diciamo, questa serie di fallimenti, perché ovviamente sono costi altissimi che se ne vanno. Poi è una figuraccia. E poi c'è il problema che se questi fallimenti continuano, gli americani ovviamente si ritirano tirano dal lancio, quindi è una serie di problemi non indifferente. Per fortuna il Soyuz, che ha lanciato dei satelliti importantissimi anche qui per telecomunicazioni dalla Guyana, perché non dobbiamo dimenticare che quest'anno per la prima volta il Soyuz, cioè questo razzo russo, può partire anche dalla Guyana francese, quindi da una base europea, diciamo così, ha funzionato proprio settimana scorsa, è stato lanciato, è andato tutto bene, quindi speriamo che, insomma, che sia una fase che si vada poi chiudendo. Sì. Chiudiamo con uno sguardo sulla Cina. Che cosa stanno facendo dal punto di vista spaziale, Luigi? Il 30 di dicembre un rappresentante dell'Agenzia Spaziale Cinese in modo ufficiale ha detto che entro il 2016 inizieranno una loro stazione spaziale. Una mini stazione spaziale è già in orbita, è stata lanciata l'anno scorso, poi alla fine di quest'anno, mese di ottobre, hanno lanciato una navicella che per due volte si è agganciata a questa mini stazione spaziale, e perché il docking è una delle operazioni più difficili, l'aggancio. È una delle operazioni più difficili nello spazio. Sulla stazione spaziale avviene, diciamo, ogni volta che c'è un lancio, però non dobbiamo dimenticare che qui sono oggetti che viaggiano a 28.000 km all'ora e si devono avvicinare fino ad agganciarsi, quindi è un'operazione difficilissima. Loro ci sono riusciti, l'hanno fatto una prima volta, poi si sono sganciati, poi si sono riagganciati, hanno dimostrato di riuscire, hanno fatto rientrare la navicella è rientrata in modo perfetto, come era rientrato in modo perfetto con gli uomini a bordo negli anni scorsi. Tutto questo cosa porterà? A far sì che nel 2012 una prima navicella, forse anche con una donna cinese, perché sono state selezionate delle astronaute cinesi, andrà su questa stazione, dove rimarranno sicuramente per 15 giorni, forse di più, in questa parte ancora molto segreta, però ci rimarranno a bordo, e questa mini stazione spaziale dovrà testare tutto quello che serve per una più grande stazione spaziale, che partirà ad essere costruita appunto tra il 2015 e il 2016. Però l'obiettivo della Cina non si ferma alla stazione spaziale, l'ha dichiarato proprio ufficialmente, ma la Luna. La Cina vuole portare l'uomo sulla Luna. Non è stata data una data, presumibilmente 2025-2030, però l'obiettivo è portare l'uomo lassù. La Cina crede davvero che la Luna può essere una miniera, nel senso letterale della parola, per la Terra. Lassù ci sono minerali molto importanti, c'è il famoso elio 3 per la fissione nucleare, insomma ci sono tante cose che hanno fatto credere che potesse essere davvero un obiettivo importante. I cinesi ci credono e vogliono portare l'uomo lassù. Nel 2013 lanceranno un rover sulla Luna, anche qui per provare tutta una serie, per fare tutta una serie di prove, e poi veramente, insomma, la strada è aperta. Speriamo che la Cina davvero dimostri che la corsa nello spazio, insomma, riprenda e ci sia poi una concorrenza da parte di tutti gli altri e si ritorni ai grandi anni degli anni 60 e 70. Bene, grazie a Luigi Bignami e anche auguri per il buon anno. Anche a tutti voi. E con questo chiudiamo questa puntata di 2024, ancora auguri dalla nostra redazione, io sono Enrico Pagliarini, appuntamento alla prossima settimana. 2024.